Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Che succede, diretta? No, sto ridendo, ragazzi, perché dovete sapere che avete sentito l'urlo, non so se l'avete sentito. Ciao Pedro, perché quando gli chiediamo di provare il microfono, questo è il suo modo di fare il nostro 1, 2, 3 prova. Ma io volevo chiederle perché urla, ciao Pedro. Tutto non so buon, se ti sente. Ti chiedono come mai urli quando fai le prove. No? Mi ha chiesto di provare. Faccene un'altra riprova. Oh! Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ci sono possibilità per Zenga per la prossima stagione. Siamo molto contenti del lavoro che ha fatto, perché non era così scontato dopo questa lunghissima pausa far subito i punti per salvarci. Venivamo da 11 partite senza vittoria. Siamo contenti del lavoro del mister. Nel giro di 2-3 giorni assieme a lui decideremo cosa fare. Liverani potrebbe essere un nome che vi piace? Non vi nego che nelle ultime due settimane abbiamo valutato ovviamente altre possibilità, quindi nei prossimi credo 4-5 giorni al massimo prenderemo una decisione finale. Ma Ranieri già ha un contratto, aveva un contratto in caso di salvezza. Stiamo parlando per verificare se ci sono le possibilità di fare ancora un altro anno. Ci ha dimostrato che vuole bene ai colori più belli del mondo. Adesso me ne vado qualche giorno con i miei figliolini e la mia famiglia. Dopo, a mente lucida, ci sediamo, perché voglio fare un campionato diverso, perché ho sofferto troppo. La conferma di Iachini è una soddisfazione in casa fiorentina? Certo, certo, ha fatto un grandissimo lavoro e siamo contenti che la scelta di Beppe Iachini continua per il prossimo anno. Buon pomeriggio a tutti, Claudio Schiattone in redazione, sempre maestro Pietro Lacorte direttamente dalla Zanzara a tutti i convocati con Gianmarco Ferronato in regia. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come fa Joao Pedro a parlare al microfono? No, abbiamo mandato prima, quando forse non l'hai sentito, sì. Non è ancora collegato. Ah, il microfono, scusi, no, il microfono. No, è stato molto divertente l'altro giorno, devo dire che quel momento lì, assieme anche al momento in cui Zenga ci raccontava il suo abbraccio con Buffon, è stato veramente il momento highlight del post partita di Cagliari Juve. Però mi vuoi chiedere un radio tweet? Certo. Sono qui apposta. La radio tweet è su Spanò, ce l'ho in canna ormai da 36 ore e che sicuramente merita un plauso, ma secondo me non merita un plauso perché moralisticamente, paternalisticamente è meglio un dottore, come cantava Chiara Venditti, di un cantante, no, non sai cosa era Venditti, conta più di un cantante, Andrea Guccini, Andrea Guccini, non è che uno studente e quindi poi un futuro manager valga di più di un centrocampista o di un difensore, secondo me per la scelta, cioè il senso, per la libertà delle scelte, fare scelte magari delle volte controtendenza rispetto a quella che è il vento, no, o il pensiero complessivo, generalizzato, maggioritario delle persone, questa è una cosa molto importante. Io poi penso che abbia assolutamente la stessa dignità, ovviamente, fare il calciatore o fare il manager d'azienda o fare l'idraulico o fare il gommista o qualsiasi altro lavoro, purché onesto, però mi piace questa scelta. Siccome ho letto, cioè siccome c'è una punta di paternalismo, no, che eroe che lascia il calcio perché va a occuparsi d'azienda, io pure nella mia vita precedente lavoravo in una multinazionale, è una cosa bellissima, perché da, però insomma non è che c'è un meglio o un peggio, c'è la scelta, l'importanza delle scelte, la libertà delle scelte, questa deve essere proprio santificata, quindi viva Spanò. Sì, scelta molto controtendenza, perché sportivi comunque laureati ce ne sono alcuni, da Chiellini in giù in su, ma abbandonare lo sport per seguire un'altra strada è davvero un unicum. Ciao Giovanni Capuano. Ciao, mi sentite? Sì. Fai la prova al microfono. Aiuto. ci siamo, siamo allineati, sì. Sì, senti, senti, abbastanza smorto, abbiamo iniziato sentendo Giulini, Ferrero, no, ma se vuoi ti do anch'io il mio radio tweet. Vai, se vuoi. Certo, come no. No, dico, finalmente abbiamo dormito. Cioè, finalmente è finita questa roba delle 21:45 per le partite, che è stato un male necessario e noi lo abbiamo caldeggiato, quindi per carità non torniamo indietro, ma devo dire è stato particolarmente stressante. E quindi finalmente abbiamo dormito, finalmente domani si gioca un orario umano. Sì, 20:45 lo ricordo, poi in Coppa alle sì. 21, quindi abbiamo smesso di fare le ore piccole. Poi parliamo anche del discorso pubblico negli stadi o gente nelle discoteche, perché quella mi è sembrata un po' una forzatura, ma ne parliamo con calma. Volevo partire invece dal famoso valzer, celeberrimo valzer delle panchine. Non balla quasi nessuno e questo in alcuni casi un po' sorprende. Ad esempio a me ha sorpreso, non so a te Giovanni, la conferma di Iachini a Firenze dopo un sacco di voci, non perché per Iachini, però sembrava proprio non fosse così sul punto di essere confermato. Guarda, ha sorpreso anche me, anche perché per dirla tutta, fino a qualche ora prima era evidente esattamente il contrario a chi si occupava della Fiorentina. Dopodiché mi sembra che Commisso abbia voluto ribadire con questa scelta una sua centralità. E allora, quando è uscito il comunicato, mi sono tornate in mente alcune parole dello stesso Commisso di un paio di settimane fa, dove, non richiesto, ricordava che alla fine la decisione sull'allenatore competeva unicamente a lui, e ho come avuto l'impressione che quelle parole due settimane fa fossero una sorta di messaggio d'uso interno più che esterno, che si è poi concretizzato con la scelta di Iachini. Sul fatto che non cambino tanti allenatori in quest'estate, io lo trovo in realtà una scelta di buon senso. Cioè, o c'è veramente una necessità o c'è veramente un disastro e quindi bisogna cambiare, oppure i tempi sono talmente stretti, anche se non si parte il 12 settembre cambia poco la questione, che credo sia molto meglio procedere in continuità piuttosto che con la rottura. Questo è l'odo pardo, che è totalmente sì, un problema o anche un'opportunità, nel senso che magari riesci a mettere sotto contratto qualcuno che ti piace particolarmente, che magari è libero, ed è esattamente il conto, ma in principio sai una festa. Credo che sia veramente un anno, dicevo sulla Gazzetta, insomma, tutta la aspetta che non ti sento, faccio fatica a sentirti, vai e vieni, ma rimediamo. Sì, detto questo, poi le parole di Giulini su Zenga non sono particolarmente rassicuranti. Esatto, magari resterà anche lui alla fine, ma dire noi siamo molto contenti di quello che ha fatto punti che non pensavamo possibili, ha salvato la squadra, fra due o tre giorni vi facciamo sapere, e tutti sanno che il Cagliari sta parlando con un altro allenatore che tra 48 ore saprà se è retrocesso con il Lecce, se si è salvato, insomma come è finita la sua stagione, che non è ancora finita, e quindi chiaramente c'è anche un tema di opportunità e di delicatezza oggi. Nel discutere il nome di Liverani e accostarlo a un altro club. Ecco, devo dire che le parole di Giulini assomigliano tanto a una sorta di preannuncio di ben servito, poi magari ci sorprenderà e anche Zenga resterà, che sarebbe la soluzione più logica. Saluto, ringrazio e faccio gli in bocca al lupo a Roberto De Ponti, che passa dal Corriere della Sera alla direzione del Corriere della Sera Toscana. Ciao Roberto. Ciao a tutti. Ti chiamo direttore. Sì, anche se non lo sono ancora in realtà. Da lunedì lo sarò, per il momento sono ancora un giornalista dello sport del Corriere della Sera. È orgoglioso di esserlo e di esserlo stato, ovviamente. Però anticipiamo, già ci portiamo avanti con i lavori. Stavamo parlando della conferma di Iachini a Firenze, tante voci, e una conferma che un po' sorprende e che ci porta. Sentiamo Commisso di nuovo dire: sì, però servono gli impianti, dobbiamo lavorare su quello. Però io concordo con quanto ha scritto Paolo Gondolo l'altro giorno: la Fiorentina dovrebbe anche smetterla di festeggiare delle salvezze. È vero, cioè, in realtà io credo che la scelta di Iachini sia una scelta giusta, di buon senso, per i motivi che avete appena detto, cioè per il fatto che sia pochissimo tempo per fare rivoluzioni. Ho la sensazione che sia una scelta però anche di ripiego, perché se Juric avesse detto di sì, Juric sarebbe il nuovo allenatore della Fiorentina, non sarebbe ancora il Verona, il che significa che l'idea di cambiare Iachini c'è stata e non è dipesa in realtà dalla decisione di Iachini, è dipesa dalla decisione di un altro allenatore che a Firenze non ci è voluto venire. Sì. Io ho anche la paura che, per quanto Iachini abbia fatto un buon lavoro, che il calcio del post lockdown sia un fasullo e che abbia dato delle indicazioni un po' strane e fuorvianti su quello che potrebbe essere poi in realtà il calcio vero. Quindi sono delle situazioni che, dove si sono viste squadre che sono migliorate palesemente, ma che poi alla realtà dei fatti, magari quando si ricomincerà con un calcio dove si gioca una volta a settimana, dove la preparazione ha un altro peso, è evidente, potrebbe accadere che siamo accorti che questo è un facsimile. Ci infila anche il Milan in questo discorso? Ho paura di sì. E anche il Milan, ho la sensazione che sia stata una scelta anche lì non dettata che Pioli non sia stata la prima scelta, tutti sanno della trattativa con Rangnick. In realtà la sensazione è che al Milan abbiano mancato di coraggio, nel senso che se poi Rangnick non fosse andato bene, e per un allenatore che deve cambiare radicalmente struttura della squadra, poteva anche accadere, saremmo qua tutti a dire che tenevate Pioli era meglio. Sì, questo certamente. Tra l'altro Rangnick non ha rinnovato con l'Lipsia, è uscito anche da quell'incarico, pertanto è ufficialmente un uomo e un allenatore libero. Posso dire una cosa, Carlo? Stavo ascoltando Roberto quando parla di questo calcio post lockdown che ha espresso forse dei valori, chiamiamoli finti, ma per brutalizzare e per evitare di perderci troppo in spiegazioni. Io torno su un concetto che avevo già espresso, non sono completamente d'accordo. Mentre parlava stavo prendendo ad esempio l'andamento della Fiorentina, e la Fiorentina post lockdown è stata esattamente la Fiorentina pre lockdown. Per intenderci, nelle 11 partite post lockdown ha fatto 16 punti, prima nelle 11 prima ne aveva fatte 14. E se voi vi prendete la briga di controllare l'andamento più o meno di tutte le squadre, c'è ovviamente l'eccezione della Lazio che è crollata completamente, più o meno nel post lockdown sono andate come erano andate nei due mesi prima. E quindi io credo che noi abbiamo visto un calcio diverso, fatto di grandi cadute, grandi risalite, di partite che magari si sono spaccate in due, o di prestazioni una diversa dall'altra tre giorni prima e tre giorni dopo, ma nel lungo periodo, perché 12 giornate, i valori alla fine sono stati quelli. Cioè l'Atalanta vinceva tutte le partite anche nel mese prima e ha continuato a vincere, l'Inter era in costante prima ed è stata in costante dopo, il Milan stava già andando a doppia velocità, e la Juventus ha avuto quella frenata finale, ma qualche segno di incostanza l'aveva già fatto vedere prima. E quindi probabilmente Iachini, che è certamente una scelta di ripiego, i motivi li ha spiegati molto meglio di noi Roberto, e poi in realtà a settembre ci farà rivedere la stessa Fiorentina che abbiamo visto di fatto complessivamente da gennaio a qui. Voglio sentire cosa ne pensa Pierluigi e poi lascio la replica a Roberto. Ma allora, sicuramente con una cesura così forte, no? con un periodo di lockdown così lungo, qualcosa era abbastanza inevitabile che cambiasse, sarebbe successo anche normalmente, anche in un campionato normale ci sono delle fasi in cui la squadra, tu pensa al Cagliari fino a dicembre e il Cagliari fra dicembre, febbraio, marzo, quindi qualche sorpresa e qualche cambio improvviso di rendimento c'è sempre, ed è quello che è capitato a Milan, Lazio e poche altre squadre, devo dire. Poi sul resto è vero che la dinamica delle partite è stata magari diversa da quella che c'era prima, cioè abbiamo visto delle cose che voi umani, ecco, prima non si vedevano, gente che imbarca tre gol in sei minuti, penso alla Juve a Milano, magari con un ritmo di preparazione un po' più regolare quella cosa lì non sarebbe successa, ma è vero pure che così come ad esempio la Juve ha sofferto e non è stata brillante sempre, anche le inseguitrici hanno buttato via occasioni, cioè anche l'Inter che butta via tre punti in casa, 11 contro 10 contro il Bologna, è impressionante, no? Quindi c'è stata una tendenza nella partita, all'interno della partita, sicuramente a qualche sorpresa in più. E sulla Fiorentina, sì, io penso che insomma Iachini abbia fatto bene, non clamorosamente bene, però nemmeno male. Quindi alla fine si è trovato in una situazione di essere, diciamo, un buon ripiego può sembrare offensivo, no? Ma insomma, secondo me è mancata l'opportunità di cambiare ed è una scelta solida che garantisce una certa sicurezza, insomma, cioè ha una sua logica. Milan. È una decisione che ha una sua logica, ha fatto, e comunque il premio a una stagione complicata ma dignitosa. Sì, appena appena, poco su, sì, cioè, poi la domanda di fondo è: a che punto è la pazienza di Commisso? Perché noi poi ci siamo abituati a questi grandi proprietari che arrivano con le idee chiare. Commisso, che noi adoriamo, è l'uomo del fast fast fast. Abbiamo capito che non ci sarà nulla di fast, non di fast fast fast, e abbiamo anche capito che comincia un po' a innervosirsi. Sì. E vorrei sapere da Roberto a che livello è il vaso della pazienza. Ah, io credo che, allora, per cominciare, la questione stadio mi sta molto a cuore e il fatto che si continui a rinviare questa partenza dell'operazione stadio mi infastidisce molto, come credo tutti i proprietari che arrivano, i nuovi proprietari che arrivano in Italia, che vedono nella possibilità di un nuovo stadio anche la possibilità di fatturare molto di più e quindi di far crescere le finanze della squadra oltre che le proprie. Sul discorso che della pazienza invece sportiva, sì, io credo che se l'obiettivo alla fine stagione è di essere dalla parte sinistra della classifica, per la Fiorentina non è un traguardo particolarmente ambizioso e credo che non sia nemmeno nelle prospettive delle prossime stagioni di un proprietario come Commisso. Ed è per questo che io ho un po' paura nella scelta, nella riconferma di Giacchini, perché è stato finora un buon allenatore, diciamo situazionista, cioè in squadre che devono comunque barcamenarsi a metà classifica, ma bisogna capire se è in grado di far fare un salto di qualità alla squadra per poter ambire almeno posizioni d'Europa. Sì, no, io brutalmente penso che l'allenatore sia un po' uno status symbol, no? Cioè ci sono allenatori che hanno una certa levatura, un certo passato. Ad esempio mi viene in mente Spalletti, che è stato accostato in diverse occasioni alla Fiorentina, è chiaro che costa molti soldi, che chiama molti soldi, però l'allenatore è un po' uno anche De Rossi, della squadra. Ti ricordi Rossi? Sì, certo. Quella improvvisa successione De Rossi, premesso che De Rossi è a quale lo vogliamo tutti molto bene, però ancora non sappiamo che allenatore diventerà, quindi cioè, è proprio un discorso ovviamente oggi che non ha nessun senso, però se tu parli appunto di status, direi quasi di brand, di equity direbbero gli esperti di marketing, è chiaro che De Rossi ti fa pensare a un certo tipo di campione del mondo, è uno che comunque ha giocato tantissime partite, è stato un grandissimo centrocampista, e quindi cioè, voglio dire, parliamo di una situazione un po' diversa. No, io sono d'accordo Roberto, mi dispiace perché poi sembra di mancare di rispetto a Iachini, e invece Iachini è un ottimo allenatore. Oh, Iachini è veramente un ottimo allenatore. Secondo me anche quest'anno, quando la situazione si è fatta complicata, lui ha dimostrato di essere, poi probabilmente poteva girargli già qualche settimana prima, perché Lazio Fiorentina è stato uno snodo che poteva finire diversamente e avrebbe forse salvato la Viola con quattro partite prima di quello che poi in realtà è successo. Quindi Iachini, sono d'accordo, è un ottimo allenatore. È chiaro che se devi pensare a una Fiorentina che entra in un gruppo di 6-7 sorelle che prova a percorrere la strada dell'Atalanta, della Lazio, che credo sia l'obiettivo che ha a cuore Commisso, pensi ad un allenatore magari un pochino più glamour, su questo non c'è dubbio. Allora, sul glamour posso intervenire? Certo. Ecco, il nome di De Rossi che è stato fatto, io anche su questo ho qualche perplessità, non per altro perché direi che... Perché non è un allenatore, vorrei dire. Sono controprove. Non tutti sono Zidane, per capirci, e non tutti hanno i giocatori che ha avuto a disposizione Zidane. E che è stata una combinazione fortunata e fantastica di elementi che l'ha portato a vincere tutto. Però non è così semplice passare ad essere un grande giocatore a un grande allenatore. Ma lo insegna la storia. In qualche misura anche per Guardiola, che è la più grande di tutte le eccezioni, no? Nel senso che chiaramente Guardiola è uno di quelli che hanno cambiato la storia del calcio, quindi però è evidente che anche lui poi si è trovato subito ad allenare una squadra che era fortissima, poi lui ci ha messo tantissimo del suo, quindi no, sono d'accordo Roberto, è ovvio che il fattore umano e la rosa che è a disposizione è fondamentale. Iachini ha esperienza da vendere, è un buon allenatore, ripeto, non ti fa pensare al salto di qualità, però magari poi arriva il salto di qualità e arriva con Iachini, cioè, potrebbe tranquillamente succedere. Ragazzi, io vorrei cambiare argomento e farvi commentare una dichiarazione di ieri di Dalpino a proposito di stadi pubblico che non c'è, discoteche eccetera. Noi abbiamo presentato un documento molto corposo che abbiamo redatto insieme al massimo dei consulenti per indicare una via sul ritorno agli stadi. La sicurezza viene davanti a tutti, però ho delle difficoltà in alcuni momenti a pensare ad alcune discoteche aperte. e poi pensare che sabato sera saremo a Torino per la premiazione del campionato e ci avremo nemmeno un tifoso. Allora, io credo che il discorso sulle discoteche sia abbastanza demagogico, no? Perché si parla di ristoranti o dei bar, la sopravvivenza di un settore economico, il calcio è riuscito a sopravvivere televisivamente a quanto è successo, però è indubbio il fatto, Roberto, riparto da te, che bisogna andare in quella direzione, perché in Francia, vabbè, è la situazione più paradossale di tutti. Stasera giocano Lione e Paris Saint-Germain in uno stadio con poche persone, con pochi spettatori, ma in uno stadio con della gente dentro. Wembley per l'Inghilterra verrà riaperto con limiti di capienza. È chiaro che si deve andare in quella direzione lì, non solo per il calcio ma anche per gli altri sport, di cui poi parliamo, e in cui la situazione è più preoccupante. Sì, sono d'accordo con te, cioè un po' alla volta bisognerà cominciare a pensare a riaprire gli stadi. Certo, capisco le resistenze che vengono fatte, il discorso, il paragone con la discoteca non esiste, cioè solamente la gente che viene spostata per entrare in una discoteca o per entrare in uno stadio non è paragonabile, sono numeri non paragonabili, sì. Quindi direi che è complicato gli spostamenti, perché poi comunque arrivare a un impianto non è che uno entra come passa la porta, supera, butta fuori, sposta il biglietto ed entra. Cioè, è molto più complesso, insomma, e in più sposta molta più gente da località diverse. Quindi capisco però anche il fatto che non si può a questo punto, cioè un pochettino alla volta bisogna cominciare anche a prendere il coraggio di rispettando al massimo tutte le disposizioni possibili e immaginabili, di cominciare a aprire stadi da 70-80 mila spettatori. Credo che avere qualche migliaio potrebbe essere accettabile. Sì. Quantomeno lavorare per un protocollo, è più simbolica la cosa, è più simbolica che non credo che ogni caso che fare a San Siro 3-4 mila spettatori cambi qualcosa, però dà l'idea di comunque del fatto che hai un pubblico in uno stadio e non giochi alla PlayStation e lo vedi solo virtualmente. Dicevi, Pier? Ti faccio un protocollo veloce, visto che c'è anche la campagna abbonamenti. Io stabilirei in ogni stadio ovviamente una percentuale con dei posti a sedere con delle grandi X fra un posto e l'altro, con due posti vuoti, insomma, quello che sarà, quello che i tecnici e che la scienza ci dirà che è la distanza giusta da rispettare. Comincerà una campagna di abbonamenti, ovviamente con un meccanismo automatico di rimborso qualora si dovesse fermare, perché non è che ci possono rimettere i tifosi, e la strada deve essere quella. È vero che in discoteca ci sono meno persone in senso assoluto, ma nel rapporto metri quadri persone onestamente non lo so se siamo meglio o siamo peggio. Quello che chiaramente oggi è molto difficile pensare e che fa parte del calcio e della bellezza del calcio, e quando pensa alle curve soprattutto, ma anche alle tribune, con le persone che si abbracciano, con quel tipo di socializzazione che per me è bellissima, ecco, quella roba là certamente va evitata, così come probabilmente stiamo parlando di fruizione di uno spettacolo in condizioni io vedo anche dei miei amici cantanti che stanno rimodulando dall'autunno il loro concerto. Per loro, e magari andrò anche a sentire, allo stesso modo il calcio questo alternativo se lo deve porre. Insomma, a me sembra sempre che ci siano dei settori della vita pubblica dove è più difficile muoversi. Secondo me è giusto farlo, ovviamente chiedendo alle persone l'intelligenza che le persone nel nostro paese, salvo qualche rara eccezione, hanno mostrato dall'inizio, perché questo è un paese dove ad oggi, facendo tutti gli scongiuri del mondo, abbiamo affrontato il problema, abbiamo pagato un conto carissimo, però la gente si è comportata bene, si è messa le mascherine, ci sono zone d'Italia che sono state soltanto sfiorate dal problema, con la gente che giustamente continua a mantenere tutte le precauzioni, certo. Quindi È fondamentale che questo sia importante, che non si ridimensioni il problema, perché ci sono stati 35.000 morti, però è importante anche pensare al dopo, e così come ci si pensa sui concerti, sulla musica, e già purtroppo secondo me nel presente, nelle discoteche, non mettono la mano sul fuoco che in tutte le discoteche d'Italia ci siano le distanze giuste, il calcio ci deve ragionare, no? Sì, deve comunque lavorare per arrivare a quell'obiettivo, certo. E con tempi certi. Poi se il comitato ti dice che purtroppo c'è un problema, allora blocchi e rimborsi, sì. Questo non c'è dubbio, ecco. Giovanni, però la sensazione è che si debba lavorare per quell'obiettivo con dei tempi che devono essere quantomeno precisi. E anche con una certa coerenza. Bravo. Perché il tema di che cosa succede in altre attività anche in queste settimane è un tema che esiste esattamente come esisteva ad aprile, quando si ragionava sulla ripartenza del calcio e sull'assurdità di mandare le persone a correre nei parchi e non farlo fare ad esempio ad atleti professionisti all'interno dei loro centri sportivi. Io credo che pensare di riaprire prima della fine di questa stagione sia stato un errore, e averlo verbalizzato sia stato un errore, anche se è vero, cioè quello che dice la Lega è vero, sabato sera ci sarà la festa scudetto della Juventus senza neanche un tifoso, e negli stessi minuti ci saranno dei locali aperti a Torino dove chiaramente non sarà rispettato il divieto di assembramento, le distanze sociali e tutto il resto, però poi bisogna essere anche onesti e concreti, e ad esempio la concretezza ti fa dire che il problema non è tanto mettere 30.000 persone dentro San Siro, che è uno stadio da 78.000, quanto gestire mezz'ora prima della partita e mezz'ora dopo la partita ingresso e deflusso di quella massa di persone. E allora, siccome bisogna fare le cose per bene senza fare degli strappi avanti, secondo me uno strappo avanti è stato quello di immaginare che si potesse in questo mese di luglio riaprire gli stadi. Sì. Da qui in poi però cambia, e io devo anche dire che cambia anche la geografia delle urgenze di questo paese legate allo sport. Noi ci occupiamo di sport perché noi parliamo di gente negli stadi, ma c'è tutta un'attività di base che ancora non sa se a settembre potrà ripartire, e stiamo parlando di milioni di ragazzi, bambini, giovani, anche adulti, che non sanno se ritroveranno la loro attività, semplicemente perché si fa fatica ad avere un protocollo, perché non si sa se ci sono le strutture, se verranno destinate alle scuole, se si potrà restare dentro quelle strutture. Ecco, io credo che sia arrivato il momento, se vogliamo partiamo pure dalla questione dell'apertura degli stadi, che si riaccendano i riflettori in maniera importante sul settore industriale dello sport, in questo caso non più legato soltanto alla Serie A, che è per mille motivi, lo abbiamo spiegato, trainante, ma bisogna fare qualcosa. Bisogna ad esempio, perché è un tema che non è ancora stato risolto, così lo dico e noi ci torniamo su, che le promesse sulle possibilità di sponsorizzazioni defiscalizzate di cui abbiamo parlato diventino realtà, perché siamo arrivati al mese di agosto e non è che siamo in ritardo, siamo abbondantemente oltre il tempo limite. Guarda, dopo la borsa ne parleremo con Sandro Campagna e con Mauro Berruto, perché chiudo con Roberto De Ponti. Credo che, insomma, a me dà parecchia preoccupazione l'orizzonte non solo dell'attività di base ma anche degli altri grandi sport di squadra diversi dal calcio, Roberto. Assolutamente, io sposo in pieno la tesi appena spiegata, cioè io vedo le società dilettantistiche che fanno basket, pallavolo, che non sanno se riprenderanno perché non sanno se hanno palestra a disposizione, e questi sono veramente, questa è la base dello sport italiano. Capire se il sindaco della tale località concederà la palestra oppure dice no, io non prendo la responsabilità e quindi non lo faccio, quindi divieto di allenamenti, oppure la scuola che dice avrò bisogno di più spazi, userò quell'impianto per metterci le classi che non posso mettere nella scuola, benissimo, però poi in realtà l'attività sportiva del giovanile e dilettantistica ha un peso importantissimo nello sport italiano e non può essere chiusa, e il discorso anche dello sgravio fiscale sulle sponsorizzazioni è un'altra cosa importante per aiutare questo sport minore, che rischia veramente di collassare, perché noi parliamo del calcio, ma alla fine il calcio con i diritti televisivi in qualche maniera se la cava. Ecco. Esatto. Programmare il futuro non significa essere negazionisti, non significa, qui che mio francamente il negazionismo mi fa orrore. cioè qui è successa una cosa terribile e non ne siamo ancora fuori del tutto, perché negli altri paesi la situazione è grave, quindi noi dobbiamo essere preparati in qualsiasi momento a chiudere, e in qualsiasi momento secondo me la scienza avrà la priorità nelle scelte, perché nessuno si deve far male e bisogna limitare la salute delle persone, è l'aspetto fondamentale. Però questo non toglie che nel frattempo, esattamente come dicevamo 2 mesi fa quando si ragionava sul poter riaprire gli stadi e almeno il calcio e le partite, si deve lavorare per riaprire la vita in tutti i settori. E questo secondo me è fondamentale, e questa roba qui è esattamente nella direzione di continuare a vivere, di continuare a esistere, e questo è fondamentale. Per cui no, il tema è caldissimo, ascolto, ma insomma credo adesso, che sia veramente fondamentale. Adesso lo sviluppiamo, perché Mauro Belluto tra l'altro ha fatto un post l'altro giorno: a settembre 2020 un meteorite si abbatterà sullo sport italiano, lo sentiremo tra poco. Ciao Pier. Ciao. Direttore, in bocca al lupo, Grazie Crepi. Ci sentiamo presto, grazie Roberto. Borsa, torniamo. Da interista mi auguro che Conte resti tanti anni, che ci faccia vincere finalmente qualcosa, ma il mio sogno è prima o poi di vedere su quella panchina rovente l'uomo ragno, un Walter Zenga, c'è solo un Walter Zenga. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Tutti convocati. C'è stata qualche riunione interna, beh, questo io ormai siamo abituati, ci ridiamo un po' sopra anche all'interno, e ne l'abbiamo fatto allo stesso modo con Sarri in queste settimane. Sarà lui l'allenatore della Juventus nella prossima stagione? Senz'altro. Scommetterebbe su Moreno Longo la prossima stagione sulla panchina del Toro? Se fossi il presidente sì, ma siccome sono Moreno Longo non sono nella testa del presidente. Allenatori Paratici che parla di Sarri e Moreno Longo che parla di Moreno Longo. La prendo sul fronte calcistico per poi andare su meteoriti e dintorni con Mauro Berruto e Sandro Campagna. Ringrazio entrambi. Ciao Mauro, ciao Sandro. Buon pomeriggio. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao Mauro. Ciao Sandro. Allora, partiamo dall'allenatore campione d'Italia come tifo, Sandro Campagna. Sei soddisfatto di Sarri? Sono soddisfatto della Juve che vince sempre, che non perde mai un derby, quindi insomma. Non girare la domanda però, Sandrino. So che Mauro. No, guarda, Sarri va giudicato a fine stagione. Perché secondo me nelle partite secche può dare qualcosa in più. Quindi io sono a vincere il campionato e adesso vediamo. Adesso vediamo cosa succede in queste quattro partite, eventuali quattro partite di Champions. Sì, poi se non... Carlo, se tu gli chiedi contento di Sarri e lui risponde contento della Juve che non perde un derby, è un po' come dire bella quella ragazza, è un tipo simpatica. Cioè ha già risposto che no. Sarri non gli è piaciuto. E beh, poi dice anche vediamo come funziona la campagna europea, no? È chiaro che se non dovesse andare come dovrebbe andare con il Lione, poi bisogna ricominciare tutto da capo, a cominciare da Paratici. Mauro lo sa benissimo, un giocatore e un allenatore giudicato dall'esterno è veramente difficile, bisogna capire dentro lo spogliatoio che dinamiche ci sono state, come i rapporti come sono, quindi vai a capire cosa sta succedendo, cosa è successo nello spogliatoio della Juventus. Quindi all'esterno poi la Juventus non è che faccia passare nulla, e questo va dato merito alla società. Sì. Quindi giudicare, tanto ha vinto, sicuramente non ha, il gioco di Sarri non è stato così, non si è visto poco, si è visto comunque a corrente alternata. Era perché le caratteristiche del giocatore non erano adatte, o lui non si è calato nella mentalità Juve, non lo so, questo dal dall'esterno è veramente molto difficile. E poi io, i colleghi, tendenzialmente non li giudico, perché comunque bisogna trovarci. Bisogna trovarsi da quella parte lì, da quella parte lì. Mauro, esatto. Mauro, soddisfatto di Moreno Longo? Ah no, pensavo mi chiedessi di Sarri. No, ti chiedo di tutti e due. Allora, per me da tifoso uno dei più grandi allenatori della Juve è stato Manfredi, quindi è ovvio. Beh, non ho dubbi su questo. Al di là delle battute, io sono amico di Moreno Longo, quindi non sono obiettivo, però credo che, vabbè, intanto per ciò che riguarda il Toro, registro una salvezza, chiaramente non dico festeggio una salvezza, perché bravo. È evidente che la squadra non aveva quell'obiettivo, ma è altrettanto evidente, anche qui chiamo in caso Sandro, lo sa bene, che quando una squadra parte con un obiettivo molto ambizioso o più ambizioso e poi si ritrova a giocare per un obiettivo radicalmente diverso, il rischio è gigantesco. Sì. Nella fattispecie Moreno è arrivato, credo, nella condizione più difficile che un allenatore può immaginare, quindi un subentro è già lì, c'è da dire. Un subentro che dopo poche partite, poche settimane, ha visto una roba mai successa nella storia, cioè 56 giorni di... Sì. Di impossibilità di lavorare di squadra, ovviamente, quindi poi ha visto una ripartenza di modo pochi giorni con un modello stile NBA dove fondamentalmente si gioca e non ci si allena mai. Quindi come potete capire, io credo veramente, io ringrazio Moreno, perché questa salvezza non era per niente scontata e ripeto, la cosa che mi fa piacere è che il Toro giocherà ancora in Serie A l'anno prossimo. Però credo davvero che lui sia arrivato in una condizione che più complicata era impossibile a definire. È veramente una storia da Toro quella di Moreno Longo, nel senso che quindi presumo che l'idea che possa essere sostituito per dare il Toro, insomma il nome che si fa è quello di Marco Giampaolo, che è un ottimo allenatore ma è un costruttore di un gruppo, è un costruttore di un gioco forse incompatibile con quello che saranno le prossime settimane prima della nuova stagione, quindi se devo fare la sintesi come idea non ti fa impazzire, al di là dell'amicizia per Moreno Longo. Io credo che chiunque sarà allenatore del Toro debba avere la possibilità di essere giudicato per quanto sarà possibile, un po' costruendo una sua squadra e un suo modo di giocare. Moreno, ripeto, comunque non avrebbe potuto farlo arrivando in corsa in una situazione che aveva visto cambiare il suo obiettivo. Io se resta Moreno e se a Moreno vengono affidate davvero le chiavi di un progetto, io sono contento perché ho molta fiducia in lui. Ripeto, la situazione è complicata in assoluto, nella fattispecie davvero, sarebbe davvero ingiusto giudicarlo perché non ci sono proprio gli elementi. Non ci sono le condizioni. Allora, avviciniamoci a quel famoso meteorite di cui sopra, che ho già citato prima, partendo da Siracusa e dai due mesi di stage di Sandro Campagna che avevamo sentito, eravamo tutti insieme, noi quattro, prima dell'inizio di questa... Di questa lunga avventura. Voglio chiederti com'è andata e poi farti complimenti, perché l'esibizione nello stadio naturale di Siracusa al mare, là dove c'era il vecchio campo di gara, e poi a Ostia, nazionale 2011 contro nazionale 2019, beh, queste sono belle idee, Sandro. Sì, intanto il collegiale è stato lungo, è stato anche duro sotto certi aspetti, restare in uno stesso posto senza mai andare a casa per due mesi senza avere un obiettivo non è facile. Sono partiti i ragazzi alla grande perché si sono rivisti dopo tre mesi di lockdown, quindi c'era grande felicità di riprendere un minimo di vita normale e abbiamo ripreso a allenarci. La situazione era abbastanza critica dal punto di vista fisico, per cui le prime tre settimane è stata una graduale ripresa. Piano piano poi dalla quarta settimana in poi ho alzato i carichi di lavoro e siamo arrivati alla settima settimana con un picco di lavoro importante, quasi simile ad una preparazione olimpica, diciamo, però fatta soltanto una settimana, 10 giorni, naturalmente. E poi volevamo chiudere con delle partite. La federazione mi aveva dato l'ok per organizzare un torneo, avevo contattato sia Montenegro che Spagna, e poi l'evoluzione degli ultimi periodi hanno sconsigliato questo torneo, per cui ecco, le idee ci sono venute in mente. C'è stata l'idea appunto di una esibizione a mare a Siracusa e di una partita a Marcord ad Ostia mercoledì scorso, dove insomma c'è stato grande successo sia mediatico ma soprattutto si è ritornati a giocare ed era quello che i ragazzi volevano. Beh, ma mediatico non va sottovalutato, perché io sono sempre stato convinto che tu devi comunque portare lo sport alla gente e in situazioni che possono comunque creare avere facile creare curiosità. Allora, io direi che per recuperare più tempo anticipiamo il traffico, lo facciamo subito, possibile, sì, così poi lascio a Giovanni Capuano il compito di rifare le considerazioni di prima e andiamo sul meteorite. Ma perché i gobbi non ammetteranno mai, neanche sotto tortura, che Sarri non lo sopportano, come non sopportavano Allegri perché veniva dal Milan, perché sono provinciali. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora Giovanni, vai tu sulla meteorite. Ma guarda, il meteorite è molto semplice, l'immagine è molto azzeccata ed è arrivato il momento di parlarne, di scendere di nuovo in campo. Noi prima discutevamo dell'apertura o meno degli stadi al pubblico della Serie A, che è certamente un tema da settembre in poi, anche se presenta delle criticità. Se vogliamo possiamo farne il tema bandiera, ma dietro quel tema c'è la necessità di rimettere lo sport al centro del dibattito, esattamente come a un certo punto la scorsa primavera ci fu l'esigenza di alzare i gomiti per rimettere il calcio professionistico al centro del dibattito, perché era finito in un angolino. E in questo momento lo sport rischia letteralmente a settembre di non ripartire. Ci sono interi sport, ci sono discipline che non hanno i protocolli, c'è lo sport di base, quello fatto da milioni di bambini, ragazzi, ragazzini e anche adulti, che non sa se e come potrà ripartire, non sa quali sono le regole, non sa se avrà le infrastrutture, nel caso ad esempio di tutti quelli che utilizzano le palestre comunali, le palestre legate allo sport, e non sa se avrà la possibilità di trovare ancora la propria società, perché dopo settimane di parole e di promesse siamo ancora fermi, ad esempio, al non avere quel provvedimento sul credito d'imposta per le sponsorizzazioni, che è ossigeno puro per tutto il mondo dello sport, che si trova al di sotto di quella grande bolla ricchissima che è rappresentata dal calcio di Serie A, per la quale ci siamo battuti, perché se si fosse fermata quella si sarebbe fermato tutto, ma che oggi non può essere l'unico tema con la riapertura o meno degli stadi. Dunque, professor Berruto, Sandro Campagna, dibattito aperto. Mauro. Io ho identificato questa metafora, che non è neanche tanto una metafora, perché davvero lo sport di base, così come è stato perfettamente riassunto, è in prossimità di un potenziale rischio scomparsa, estinzione. Non è mai successo nella storia, cioè succederà qualcosa fra 6-8 settimane che non è mai successo prima, e cioè che i tre fattori che hanno tenuto in piedi lo sport di base dal secondo dopoguerra ad oggi, che sono appunto il contributo economico, diciamo, di quella media piccola impresa che in forma anche un po' mecenatistica ha sempre supportato il sistema, la disponibilità economica ridotta delle famiglie, che sono una seconda colonna portante, pagando le quote di iscrizione dei propri figli ai vari corsi, alle varie attività sportive. Terzo, è stato citato, questo ahimè purtroppo non so se non si sappia, si sa già abbastanza che per esempio le palestre scolastiche, che sono il luogo dove il 90% di chi fa attività di base fa i propri corsi, le proprie attività, non saranno disponibili o saranno disponibili con dei protocolli che sono del tutto ancora ignoti. Allora la congiuntura contemporanea di questi tre eventi rischia di falcidiare, ma letteralmente come mai prima, quella diciamo base sommersa dell'iceberg, di cui, come avete detto bene, il calcio e la Serie A di calcio e l'eventuale ripartenza con il ritorno dei tifosi agli stadi è un cubetto di ghiaccio in cima a qualche cosa di gigantesco che rischia di letteralmente scomparire. Allora non possiamo permettercelo, primo per l'amore che tutti noi abbiamo per lo sport, secondo perché questo non è solo un problema degli sportivi, è oggettivato da migliaia di pagine di letteratura scientifica, che se succede questo significa portarsi a casa con certezza un ulteriore aggravarsi del sistema economico, per esempio sul Servizio Sanitario Nazionale, che devo dire negli ultimi mesi ne ha già viste di abbastanza. Ne ha già viste di abbastanza, sì. Davvero ciò che è stato citato, quindi l'eventuale disegno di legge sul credito d'imposta. Io ho anche parlato di una considerazione da tenere presente, cioè, abbiamo visto arrivare bonus per le vacanze, bonus per l'acquisto delle biciclette, tutto molto bello. Io non è che sia particolarmente favorevole così all'assistenzialismo, ma in questo momento è come essere in un pronto soccorso dove arriva un paziente politraumatizzato. Prima bisogna salvargli la vita, poi dopo si inizia poi si a curarlo. Si ragiona sul resto. Un bonus alle famiglie che permettano non solo di poter continuare a fare sport, a far fare sport ai propri figli, ma mettano anche liquidità nel sistema, perché quello sport lo faranno in società che oggi sono letteralmente alla canna del gas. Io credo che sia uno strumento decisivo. L'Emilia Romagna lo ha fatto, quindi è possibile. Ma guarda, a me tornerò sulle parole dell'altra volta di Sandro Campagna, che mi hanno, non ti dico traumatizzato, ma quasi, quando diceva questo sistema così com'è è morto. Prima c'è Omar da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Salve, io volevo chiamare perché il nuoto sta vivendo una crisi profonda, ma a livello giovanile c'è una crisi profonda. Hanno organizzato dei categoria gli italiani quando nessuno si è allenato, solo le squadre più potenti l'hanno potuto fare. Se questo è lo sport del prossimo avvenire, stiamo freschi. Ci conviene chiudere. Sì, ma non ci conviene chiudere, questo è il punto, non ci conviene per niente, per le ragioni che ha spiegato Mauro. Sandro Campagna, che ne pensi? Beh, Mauro ha fatto una fotografia esatta della situazione. Io l'avevo detto, come hai detto anche tu, alla fine del lockdown, che questo sistema rischia di collassare, e lo stanno dimostrando le centinaia e forse anche di migliaia di impianti sportivi che chiuderanno, che non stanno riaprendo, o se hanno avuto la forza di riaprire per cercare di capire se riescono a sopravvivere, ma molti non potranno sopravvivere. Molte piscine sono aperte perché, cioè, almeno d'estate, i costi estivi, soprattutto quelli ad aperto, si può pensare di poter fare, di poterli fare, ma sono convinto che da settembre molti impianti sportivi chiuderanno, non ci saranno. Quindi il contributo va dato alle società, perché lo sport si basa sulle società sportive, ci sono 40.000 in Italia. Non sono soltanto le società di calcio, naturalmente anche Gravina recentemente in un'intervista ha detto che è preoccupato per lo sport del calcio dilettantistico, e tutti gli altri sport sono dilettantistici, anche la pallavolo, per quanto girino dei soldi, comunque uno sport a status dilettantistico. E quindi pensate le centinaia di migliaia di atleti che non potranno svolgere attività sportiva da settembre. E quindi sono molto molto molto preoccupato, e seriamente preoccupato. Poi tutti parlano del campionato di calcio e si stanno lamentando la stessa federazione sui protocolli, che sono veramente impegnativi, con 4 tamponi al giorno per tutti i giocatori, ma nessuno gli viene in mente come devono fare le altre federazioni a far partire il campionato, esatto, giovanili. Esatto, è quello, perché ti dicono vabbè, a settembre ricomincia la pallanuoto, ricomincia la pallavolo, ricomincia il basket, sì, va bene, ma come? Cioè, ma come? Nessuno ha spiegato come, senza considerare che il calcio senza il pubblico negli stadi televisivamente, quindi economicamente, sopravvive. Per gli altri noi che viviamo di botteghino e di sponsor, se non c'è quindi l'imposta e non c'è botteghino, moriamo. Esatto. E quindi dicono bene, a settembre ricominciamo, ma mi sembra l'orchestrina che suona sul Titanic, per usare un'altra immagine, Mauro. Io penso che dopo il 31 luglio dovrebbero uscire i nuovi decreti, no? E quindi aspettiamo che ci sia un'apertura delle maglie per cercare di capire come potersi infilare le varie federazioni, ma comunque un tavolo tra comitato tecnico scientifico, federazioni, CONI e Ministero dello Sport va fatto immediatamente, perché il 15 settembre noi abbiamo programmato di ripartire con la Coppa Italia di pallavolo. Abbiamo programmato il 31 luglio. Si tratta di capire di quale anno, Mauro. Esatto. Farei sedere al tavolo che propone Sandro anche il Ministro della Salute, però per le ragioni che dicevo prima, perché l'emergenza è assoluta, e se posso io faccio ancora un ulteriore passo, nel senso che abbiamo parlato ovviamente di sport professionistico e va bene, poi abbiamo parlato di quello sport che ha bisogno di identificare i propri protocolli per poter ricominciare la propria attività agonistica, di qualunque livello sia, no? Di qualunque categoria sia. Poi c'è un terzo livello ulteriore, che è quello che io amo definire cultura del movimento, no? Cioè che costruisce quella cultura del movimento che, per varie ragioni sulle quali potremmo discutere per 5 puntate, la scuola, anche in questo caso dal secondo dopoguerra, ha deciso di non occuparsi più. Allora, quello sport lì, che ovviamente fa molto riferimento alle attività di base, alle palestre scolastiche, eccetera, eccetera, volente o nolente, io credo per provare anche a essere un po' costruttivi, no? Nel senso, abbiamo identificato tante minacce, proviamo anche a immaginare qualche soluzione. E mi veniva in mente la soluzione e la bellezza di quello che ha fatto Sandro usando il mare come piscina per allenare i suoi atleti della nazionale. Allora, se proprio vogliamo trovare qualcosa di costruttivo e di utile che questa situazione può aver regalato, mi è difficile, no, pensare agli ultimi mesi a trovare qualcosa di bello, ma proviamoci, è probabilmente una necessità di pensare fuori da out of the box, come si suol dire, con una creatività che l'urgenza rende necessaria, per andare a riappropriarsi di altri luoghi dello sport che, devo dire, il nostro paese fortunatamente ha come pochi altri al mondo, e mi riferisco ai parchi cittadini, alle colline, ai fiumi, al mare, appunto, ai laghi, alle spiagge. Credo che, e lo dico da allenatore di pallavolo, ci sia tutta una parte di movimento sportivo che dovrà, per un periodo da definire di tempo, perché poi prima o poi si tornerà a fare le cose che c'erano prima, reinventarsi il modo di fare sport. E probabilmente non è fare un downgrade, no? Ma anzi forse fare un upgrade a quel modo di fare sport che probabilmente fa molto riferimento all'atletica leggera, cioè alle condizioni di base, no? Al correre, al lanciare, al saltare. Però quello possiamo inventarcelo riappropriandoci anche un po' della bellezza del paesaggio delle nostre città e in assoluto del nostro paese. Per un po' di mesi quella cosa lì deve essere percepita come una possibilità che possa cambiare anche un po' il modo in cui si vede, certo, l'idea dell'insegnare la cultura del movimento. Poi sulla quella base torneremo con le nostre discipline, con i nostri aspetti legati alla tecnica e alle discipline nelle loro specificità. Però ecco, almeno usiamo questo contesto terrificante per provare a fare un salto in avanti proprio di creatività. Per usare una fantasia più che mai necessaria. Grazie ragazzi, grazie Mauro, grazie Sandro, grazie davvero, sempre un piacere che condivido con Giovanni Capuano. No, Giovanni, mi sembra che, insomma, quanto abbiamo detto dovrebbe essere stampato. Ma io, insomma, è anche tutto molto poetico, e quindi prima di arrivare anche a quell'upgrade, come è stato definito, noi in maniera molto più pragmatica chiediamo che nelle prossime ore, oramai neanche nei prossimi giorni, si dia corso a cominciare con quei provvedimenti che sono stati più volte promessi nelle ultime settimane e che, come abbiamo spiegato tutti, compreso Mauro Berruto e Sandro Campagna, sono la maschera d'ossigeno per tenere in vita un paziente che riguarda tutti noi. Quindi lo sport non è un passatempo, ma è qualcosa al quale un paese non può fare a meno, a nessun livello, partendo dal calcio iperprofessionistico della Serie A con tutto quello che significa dal punto di vista economico, arrivando fino alla squadra di basket di una periferia di una grande città che deve ricominciare la sua attività e ad oggi non ha probabilmente il grande sospetto di non poterlo rifare. Grazie Giovanni, ci sentiamo domenica con te. Grazie a te. A domenica, naturalmente, tutti convocati weekend, 17-19, ci saremo ancora per questo fine settimana. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo tra un'altra mezz'ora, tra mercato, Formula 1 e tutte queste altre cose. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pier Pardo vi aspettano. Tutti convocati. Tutti convocati. Noi abbiamo da preparare l'ultima partita che per noi è importantissima e dobbiamo farlo unendo l'aspetto emotivo a quello tecnico-tattico, perché solo così, come abbiamo fatto in altre occasioni, riesci ad aver ragione dell'avversario. Ma Ma noi anche là andiamo a fare la nostra partita, cioè noi abbiamo obiettivo arrivare più alto possibile, ci giochiamo anche Coppa Italia di prossimo anno, tante cose, guardiamo noi. Gli epurati dal Genoa, da Juric a Veloso a Lazovic a Salcedo, per domenica, come dicono a Genova, si stiamo facendo la punta al Belin. Grande creatività, ne parlavamo prima, che è anche quella dei nostri ascoltatori via WhatsApp. Continuate a mandarli, vi adoro. 349-238-6666. In effetti, quest'ultimo giro di pista del campionato è domani. Propone alcune sarebbero grandi partite, che però sono state depotenziate ovviamente dai risultati già acquisiti. Resta Atalanta Inter, che vale per il secondo posto. L'ho già detto, non sono d'accordo con Conte quando dice secondo e primo dei perdenti. Secondo me, invece, è un importante risultato sportivo e dirige probabilmente anche il primo competitor della Juventus che verrà. C'è Immobile che andrà ad infilarsi la scarpa d'oro in casa di Higuain, magari mettendosi anche l'anello di quel record, cioè il record delle marcature nel campionato italiano. Insomma, i temi ci sono: la Juventus che fa la festa scudetto davanti a nessuno, con le magliette nuove, con Sarri squalificato, con il Lione ovviamente in testa. Però l'unica partita, le uniche due partite che daranno un senso a questo weekend, parliamoci chiaro, saranno Genoa-Verona, e abbiamo sentito Nicola e Juric, e Lecce-Parma. Io credo ragionevolmente che Lecce, che anche in buone condizioni, batterà il Parma, io credo. E sul Genoa contro il Verona io non sono così convinto. Salvatore da Fermo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora volevo farvi innanzitutto i complimenti per la trasmissione, siete delle persone molto competenti. Grazie. E poi volevo fare una domanda al signor Pardo, perché è una persona che secondo me l'ho seguita da tanto tempo, una persona che di calcio ne capisce tantissimo. Le faccio complimenti registro, veramente. È in contumacia, quindi registro e poi girerò la domanda. Sì. Io volevo fare la domanda al signor Pardo, cioè eventualmente il Napoli acquistasse Osimhen, che salto di qualità può dare al Napoli? Tutto qua. Intanto le faccio rispondere dal presidente del Napoli, De Laurentiis, che ha parlato di Osimhen. Presidente, quando vedremo il suo tweet che dirà Osimhen il nuovo attaccante del Napoli? Aspettate qualche giorno. Se io le facessi vedere quanto sono alti i contratti, lei capirebbe quanto tempo ci vuole in casa De Laurentiis. E questo noi lo sappiamo bene, Andrea D'Amico ancora di più. Ciao Andrea. Ciao. Quando devi andare a trattare un giocatore con De Laurentiis, devi prenderti un po' di vacanza prima e molta vacanza dopo. Ma in realtà siamo preparati, per cui ha ragione il presidente che i contratti sono molto alti, però noi ormai da 30 anni siamo degli scalatori, degli sherpa provetti, per cui siamo pronti ad andare anche fino sull'Everest, a meno che non si scopra una cima più alta. Sì. Senti, parlavo prima delle due partite chiave di questo ultimo weekend: Genoa-Verona e Lecce-Parma. Ho detto il Lecce. Auguri. Il Lecce io credo che salterà l'ostacolo Parma, non ho ragione di credere diversamente, perché è in salute, perché ha già buttato via anche troppi punti, ad esempio quelli di Bologna domenica scorsa. Su Genoa-Verona io non metterei la mano sul fuoco su una vittoria del Genoa. Ma guarda, in realtà devo essere pratico, senza adombrare nessun tipo di altro scenario che non sia regolare o che lascia in perplessità. Devo dire che il Genoa non poteva essere più fortunato, perché comunque entrambe forse, perché hanno degli avversari che non hanno nulla da chiedere alla classifica, e sappiamo quanto questo anche mentalmente sia importante. E senza poi adombrare qualsiasi altro tipo di... Le motivazioni personali, ad esempio Juric credo che, insomma, a Juric non dispiacerebbe andare a fare uno scherzetto a Preziosi, quello che diceva il nostro ascoltatore, quelli che dal Genoa sono andati al Verona sono stati, non ti dico mandati via, però magari qualche cosa dalle scarpe se la vorrebbero levare. Però è anche vero, Carlo, che secondo me nella vita, nel calcio in particolare, punti d'oro al nemico che fugge, nel senso che penso che sia molto più importante guardare avanti alla positività di ogni carriera, di ogni rapporto, piuttosto che vivere di rancori. Questa è la mia filosofia di vita, e penso che sia così anche per chi poi dopo si lascia, cioè il tempo poi stempera veramente tutto. Non dimentichiamo che gli incroci in Verona Genoa sono molti, perché c'è Juric, un ex, c'è Lazovic, un ex, c'è Veloso, che oltre che essere un ex è genero del proprietario del Genoa. Per cui, vabbè, ce n'è abbastanza per fare uno spy story, insomma, all'ultima giornata. All'ultima giornata. Ti ricordi che l'anno scorso Fiorentina e Genoa si sono salvati perché si sono scontrati pareggiando? Sì, ricordo. Mentre l'Empoli non è riuscito a vincere con l'Inter e a fare risultato con l'Inter. Devo dire che, insomma, è un finale veramente thriller. Sì. Senti, ieri mi ha chiamato un ascoltatore che diceva: secondo me quest'estate non si muoveranno grandi giocatori perché non ci sono le condizioni. Poi intanto l'Inter sogna Messi. La tua idea su questo qual è? È un affare possibile se arriva a zero. È un affare impossibile se devi unire il transfer al suo cartellino. È vero che ormai l'Italia è diventata un po', mi sarebbe quasi da dire, il cimitero degli elefanti. Questo è un altro bel tema, Perché comunque una volta noi prendevamo i campioni nel fiore della carriera e qui era il campionato più bello del mondo, che è rimasto così aggettivato per tanto tempo. Adesso un po' è il contrario, quando magari i campioni Ronaldo, Messi, quella sono al finire della loro prestigiosa carriera, magari vedono l'Italia come un'opportunità. Tanto fa anche quel tipo di incentivo fiscale del rientro dei cervelli applicato al calcio, per cui chi viene dall'estero assume un trattamento fiscale sicuramente migliore rispetto ai trasferimenti interni. Fatto sta, Andrea, che il vintage è molto di moda, tu hai citato ovviamente Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Ribéry, io posso dirti anche Menezza, la regina, perfino leggevo il vecchio Pablo Ledesma che va al Messina in Serie D dopo aver vinto tutto con il Boca. Noto che c'è una certa propensione, magari anche per immagine, no, verso il campione stagionato. Guarda, mi è da ridere perché due notti fa mi ha chiamato Del Piero da Los Angeles dove c'è il lockdown e mi ha detto: Andrea, c'è il lockdown qua, hai trovato una squadra? E lui, è novembre 1974, insomma, con la classe che ha, anche solo per tirare le punizioni non sarebbe male, seria. No. Effettivamente, guarda, noi siamo un campionato che è sempre interessante, però comunque abbiamo perso la PD di una volta. È chiaro che se ci sono delle occasioni, tipo Ronaldo, tipo lo stesso Messi, se dovesse venire a parametro zero, sarebbe una cosa interessante. Dobbiamo pagare però i cartellini, no. Devo dire che in controtendenza rispetto a tutto quello che stiamo dicendo ora, c'è l'operazione Osimhen, perché a dispetto dei soldi pagati a Lille, stiamo parlando di un ragazzo di 21 anni, un centravanti, e il Napoli ha fatto veramente un gran colpo anche in termini di prospettiva, perché comunque questo è un ragazzo che può essere valorizzato, vista le qualità e l'età, e essere rivenduto perlomeno al doppio, se non al triplo, su piazze magari più ricche in questo momento. Sì, però se fai trading la Juve non l'attacchi. Questo vale per il Napoli, vale per il Milan, può valere per la Roma. Cioè, l'altro giorno c'era il mio amico De Giovanni che diceva: beh, però se continuiamo a prendere, dobbiamo comprare dei giocatori per vincere, per attaccare la Juventus, per attirare anche altri grandi campioni. Se invece segui la via del trading diventa difficile andare a ostacolare la Juventus vince i prossimi 80 scudetti. Vabbè, però Carlo, non è che il trading lo devi fare dopo 2 o 3 mesi, lo puoi fare quando tu comprendi uno di 21 anni, lo puoi fare anche dopo 2 o 3 stagioni. E poi una delle capacità più importanti di un direttore sportivo è quello della gestione del patrimonio giocatori, che altro non è il calciomercato, cioè comprare a poco, tenere, prendere risultati e rimpiazzare. Cioè, adesso stiamo parlando di Osimhen, ma fino a pochi mesi fa chi lo conosceva nel grande pubblico. Certo. Gli addetti ai lavori invece che fanno uno scouting interessante sanno quali sono questi colpi. Ma insieme a lui si potrebbe dire di tanti altri giocatori importanti italiani che presto vedremo alla ribalta. Non so, Coli dell'Atalanta, Fagioli della Juventus. Cioè, dobbiamo ormai essere pronti a gestire anche i nostri giovani, oltre che i giovani che vengono dall'estero. Ma morale, Andrea, tu credi che in questo mercato globalmente si muoveranno grandi giocatori o sarà tutto una riconferma e un'attesa di tempi migliori? Ma premesso che comunque i grandi campioni, veramente grandi, sono un po' sulla fase declinale della carriera, no? Quindi buoni per l'Italia. Quindi buoni per l'Italia, perché comunque quelli, come posso dire, o devi giocare in anticipo, sperando che poi questi diventino dei grandi campioni, ma i nomi a cui eravamo abituati da tanti anni ormai sono, per via dell'età, sulla fase declinale, e quindi è normale che grandissimi colpi non ci saranno, se non questi di cui stiamo parlando. Però è anche vero che io penso che a livello economico gli effetti di questo virus maledetto si faranno sentire ancora più avanti. Tutto dipende anche da cosa succederà a livello sanitario, perché sai, adesso c'è un po' la psicosi che si sente dire ritornerà, non ritornerà. Penso che, come abbiamo detto più volte anche in trasmissione da te, dobbiamo abituarci a convivere con queste cose. Certamente. Un'ultima cosa, Andrea, toglimi un'ultima curiosità. Sento di un gran parlare di affari tra l'Inghilterra e l'Italia, cioè quello di Sanchez, eccetera. Il fatto è che i giocatori che giocano in Inghilterra hanno dei contratti che per il nostro calcio sono improponibili. Eppure c'è, cioè, l'Inter che cerca Kanté. Vabbè, quanto guadagna Kanté? Cioè, guadagna una quantità di soldi che non credo che l'Inter possa permettersi. Lo stesso Emerson Palmieri, lo stesso David Silva, no? Dovrebbe arrivare alla Lazio, non so se arriverà, e rientra sempre anche lui in quel giro lì del vintage molto, molto glamour, molto di moda. Come facciamo a prendere giocatori in Inghilterra? Cambiando il nostro sistema. Guarda, più volte abbiamo detto che abbiamo perso competitività a livello di sistema, perché comunque la distribuzione delle risorse economiche, che altro non è che i diritti televisivi che mantengono tutto il calcio, o va distribuita in un altro modo, come fanno ad esempio in Inghilterra, perché un campionato è un sistema più ricco, o altrimenti, gioco forza, troveremo una squadra che per 9-10 volte di fila vincerà lo scudetto, e non so quanto interessante e divertente possa essere poi, in senso lato. E guarda, io penso che a lungo andare o si distribuiscono diversamente i soldi in modo tale da rendere più competitive le piccole, o si arriverà al discorso delle franchigie tipo MLS. Magari la seconda che hai detto. Grazie, Andrea. Un abbraccio, caro. Ti abbraccio. Allora, ciao, mando traffico. Poi ho un altro caro amico. Non c'è il traffico. Non è arrivato il traffico. Ma tanto abbiamo Leo Turrini che fa il traffico. Buongiorno, Leo Turrini. Ma infatti posso aggiornarvi subito su questo ingorgo spaventoso sulla Pero Cormano. E io so perché. E lei, maestro Genta, prossimo alle meritate vacanze, vorrà sapere perché. No, lo so perché. Perché c'è la coda, perché c'è il corteo che accompagna Messi all'Inter. Non è ancora quello, in realtà è una marcia di protesta a Passo d'Uomo, perché veramente qui tutti sono sconfortati alla notizia che Pardo non condurrà più Tiki-Tac. Noi siamo su un orlo di suicidi di massa, io devo dire. Adesso auspico che chi può faccia qualcosa, intervenga. C'è qui una signora che da Vimercato deve andare a Rogoredo, che ha detto no, ma io ci metterò ore in più perché voglio aderire a questa protesta, ci devono ridare Pardo. Insomma, tu lo sai che io sono abituato, soprattutto con la Ferrari, ad andare piano. Ma fate qualche cosa, ecco, restituiteci Pardo a Tiki-Taka. Ecco, voglio dire una cosa, vorrei sottoscrivere anch'io questa petizione, una mozione, andiamo in Parlamento, facciamo qualche cosa. Dai, un decreto legge, tanto sono di moda da morire. Ma sì, un DPCM, qualcosa di simile. Io sono pronto a provare tutto, caro gente. Dove andrai in vacanza con le tue congiunte? Dici un po'. A casa tua, vado a trovare Marino per consolarlo. Senti cosa mi ha detto l'altro giorno quando hai marcato visita al bar tour. Sentilo. Scontato che oggi Leo Turrini sarebbe dato alla macchia nel bar tour dello scudetto della Juventus. Nove di fila dalla Juve, quest'estate Turrini ti viene lo scepon. Questo direttore artistico è troppo indulgente verso coloro che fuggono. Neanche questa canzone può lenire il mio dolore, sinceramente, neanche se avessimo in trasmissione, che so, Graziano Rossi, poi potrei diventare più allegro. Veramente, se me la paga questa Turrini, oh, se me la paga. Vediamo se ci sarà. Grazie per avermi fatto trovare tanti amici. Hai visto? Così non hai sentito la mancanza di Turrini, con il quale sarai. Chi? Hai capito, Leo, dove vado in vacanza? Ma sai, io e Marino, essendo molto anziani, siamo tipo quelle vecchie coppie di pensionati che si ritrovano fisse tutte le sere a giocare a carta alla bocciofila, no? E quindi dolorosamente, quando uno ha un impegno, come nel caso mio, insomma, dovuto a ragioni di salute, perché sono molto molto anziano, l'altro ne soffre. Però voglio dire a Marino che io rimango affettuosamente vicino a lui e ci sarò anche per il 18° scudetto consecutivo della Juventus, quindi voglio dire, non vi libererete tanto facilmente di me per il fatto che la Juventus continua a vincere, continua a vincere, continua a vincere. Benissimo, io ci sarò per il 13°, il 16°, il 18°. Sarò sempre con voi, cari amici. Ma se adesso adesso comprate Messi, la festa della Juventus è finita, eh? Onestamente, anche io mi ricordo quando frequentavo un po' la Mecca del cinema Hollywood, no? Quindi parlo di molti, molti decenni fa, e dicevo, ma io sicuramente voglio invitare a cena Marilyn Monroe, no? Il problema è che lei non arriva mai. Quindi adesso io sono d'accordo con Zhang, sono d'accordo con Sturing, ho fatto bene a invitare a cena magari su Vista d'Uomo Messi, ma poi bisogna vedere se il mio omonimo, l'altro Leo, quello ben più importante, ha voglia di partecipare, di unirsi, capito? È tutto lì. Io credo che adesso è meglio pensare al Getafe che non a Messi, da un punto di vista rigorosamente nerazzurro. Per quanto riguarda la Ferrari, siamo qui appunto in corso, esatto. Piero Cormano, la macchina, come tu sai, va molto piano. John Elkann ha fatto questa intervista alla Gazzetta dello Sport in settimana. Io speravo annunciasse che si dimetteva e lasciava il posto di Andrea Agnelli, che sarebbe il presidente giusto per la Rosso di Maranello, e invece non ha recepito il mio invito, il presidente di FCA, e quindi, come si diceva un tempo, lasciamolo lavorare. Cosa devo dire? Io lasciamolo lavorare e ridateci Pardo a Tiki Taka. Senti, io ho dei messaggi per te. Adesso te li faccio sentire, in modo che tu puoi rispondere ai nostri ascoltatori che hanno mandato WhatsApp. Questo è il primo. Ragazzi, io non credo che il problema della Ferrari di quest'anno sia un motore meno veloce. Ci sono forti problemi di aerodinamicità della macchina e di vari centri della macchina. Quando tu vai a frenare prima della curva, la macchina è quasi lì per uscire di pista perché non riesci a tenerla, è chiaro che nelle curve successive tu vai a frenare prima. Allora, il motore non va, l'aerodinamica non funziona, ma per il resto tutto bene. A questo amico che è intervenuto, secondo me potrebbe presentare il suo curriculum a Maranello, lo prendiamo, eh? No, nel senso che ha detto una cosa che io condivido, cioè certamente per la Ferrari in questo disgraziato 2020 c'è un problema di power unit, questo è evidente a tutti, le note vicende dell'anno scorso, l'indagine federale sul motore di Maranello eccetera, ma non è tutto lì, hanno completamente sbagliato il progetto della macchina. Sai, qui c'è una cosa che va detta, sono anni ormai che in Ferrari dopo un po' ti dicono ma non c'è la correlazione tra i dati del computer, della galleria del vento, del simulatore e la risposta della pista, no? Cioè alla teoria non corrisponde mai alla pratica, tant'è vero che adesso ti do una piccola notizia, perché tu comunque fai il giornalista oltre che l'artista. Finalmente la Ferrari ha stanziato i quattrini, stanno costruendo un nuovo simulatore modernissimo che magari funziona, erano rimasti indietro per anni su questo, chiamiamolo, su questa apparecchiatura, ma verrà pronta a gennaio, hai capito? Adesso te ne dico un altro. Una volta Binotto andò dal povero Marchionne, così lo ricordiamo, anche perché sono 2 anni proprio in questi giorni, insomma, la sua scomparsa, e Binotto gli disse: presidente, ma qui noi, cioè, il nostro simulatore è obsoleto, dobbiamo farcene uno nuovo. E Marchionne aveva delle filosofie diverse, gli disse: costa troppo, dovete vincere senza. L'esito è che non stiamo vincendo, quindi insomma è una storia lunga e che viene da molto lontano, da molto lontano, caro Genta. Ma sei mai chiesto, Genta, scusami, tanto so che sei già in vacanza, parlo io. Come no? Ma com'è possibile che tutti gli ingegneri che la Ferrari ha licenziato sono andati tutti a lavorare a Mercedes? Me lo sono chiesto anch'io, Da Costa a Sassi, da Allison a Tortora, che non è Renzo Tortora, eccetera, ma un bravo ingegnere. Tutti. Malissimo non stanno allora, facendo. Come se tu adesso licenziassi, Pardo, Bartoletti, parato benissimo. E tutti e tre noi andassimo a una radio concorrente e ci facessimo un mazzo di quelli da paura, hai capito? Il che sarebbe facilissimo per voi. Non so se il parallelo è pertinente, perché mi fareste un mazzo così assolutamente, cioè Bartur da un'altra parte è una roba che non voglio neanche pensarci. Dopo qualcuno ti verrebbe a domandare, scusi gente, ma lei perché se gli ingegneri li ha regalati alla concorrenza? Ecco questo, quindi ci sono tante tante cose. Ho un altro WhatsApp per te. Elkan oggi ha dichiarato che il modello per la Ferrari da seguire è il modello Juventus. Oltre a rendere felicissimo il signor Turrini, questo vorrà dire che si vincerà solo a Monza, a Mugello e a Imola. Hai capito? Ma io devo dire che questa trasmissione è frequentata da persone simpaticissime. No, io guarda, te l'ho detto prima. Allora, a parte il fatto che si capisco quello che vuole dire l'osservatore, la Ferrari è considerata anche da chi la segue poco un patrimonio comune a tutti. Nel calcio sappiamo che per qualunque squadra non è così, però nella dichiarazione di Elkan ribadisco, secondo me manca un passo. Allora la Ferrari non è che vinci se hai un presidente appassionato, perché non è il numero uno dell'azienda che fa la macchina, ma hai bisogno di un leader come era il vecchio, come è stato Montezemolo, come ha provato a essere anche con i suoi errori lo stesso Marchionne, che capisca il DNA di questo marchio, di questo brand, come dite voi che siete bravi. Secondo me John Elkan questa empatia per il cavallino non ce l'ha, mentre Andrea Agnelli, che ha lavorato per la Ferrari da giovane eccetera, io sono convinto che farebbe comprendere da subito quanto è importante per lui vincere anche in Formula 1. Poi da lì a dire metti Andrea Agnelli presidente e vinci immediatamente, no, e poi capisco già la tua obiezione perché tu sei una canaglia. Ma perché io ti conosco, mascherina, e tu vuoi che Andrea Agnelli, bravo, esatto, certo, stavo per dire. Memoria. Lo so che volevi arrivare lì, allora ridammi Pardo a Ticcitacca. Non è possibile, ragazzi, un paese in difficoltà ci hanno tolto Pardo da Ticcitacca. No, io invece di Pardo da Ticcitacca ti do un ultimo WhatsApp veloce perché abbiamo ancora un minuto e mezzo. La Mercedes, quell'anno in cui tutti cambiavano le gomme tre volte, tranne la Ferrari, avevano poi cambiato le gomme in modo tale che tutti quanti le cambiassero solo due volte. C'è sta storia del DAS, anche questa è una zona grigia, mica gli dicono che non lo può usare, gli dicono che non lo può usare a partire dall'anno prossimo. Sembrano due pesi e due misure. Quindi? Sì, ha ragione. È vero, è storicamente documentato che negli ultimi anni tutte le volte che la Federazione Internazionale è stata chiamata a dirimere una questione regolamentare, se c'era di mezzo la Ferrari ha sempre avuto torto, se c'era di mezzo la Mercedes ha sempre avuto ragione. Potreste anche dirmi che accade in altre discipline, lo sapevo, siamo al 31 di luglio. No, ma è vero, cioè c'è anche un deficit di peso politico, sì, ma questo è evidente adesso, no, ma è chiaro, no? Lo vedi, perché questa storia del DAS, ad esempio, che ha citato. Tu hai veramente una platea di interlocutori informatissimi. Allora, è il volante flessibile, lo dico, certo, per le massaie in corso da Piero Cormano, no? Cioè, non è possibile che la Federazione Internazionale dica è illegale, sì, ma dall'anno prossimo. O è illegale già, o è... Usa, ma l'anno prossimo le macchine sono uguali, quindi no, o vale sai, come anche la barzelletta, scusami, è come quella barzelletta dove parlava un po' di una delle tue tante frequentatrici che diceva sono incinta ma solo un pochino. Non esiste, non è possibile, cioè se è illegale nel 2021 perché deve essere legale nel 2020? Ma poi ti potrei fare degli altri esempi. Ti potrei dire, ma com'è che se la Ferrari sostiene vendiamolo come si fa nelle moto, le monoposto dell'anno prima ai team clienti ti rispondono no perché bisogna rispettare la creatività dei progettisti, no? Poi la Racing Point, futura Aston Martin, va in pista con la coppia della Mercedes dell'anno scorso, identica, e ti dicono no, ma così va bene. Pettina tutto. Sì, sì, sì, è vero. Leo, ti saluto. Ti saluto. Ma dove vai? Non me l'hai detto. Va bene, a grazie. Casa di Marino Bartoletti, perché lo devo consolare, perché dopo moltissimo. Quello che gli hai fatto non si dà pace. Ma ci sentiamo presto. Mancherete moltissimo. Ti abbraccio. Grazie, Leo. Ciao. Claudio Schiattone, il nostro autore, Pietro Lacorte, Gianmarco Ferronati in regia. Dunque, tutti convocati weekend domenica dalle 17 alle 19 e poi tutti convocati settimana prossima con Giovanni Capuano. Noi ci sentiamo presto. Venga, è stato una montagna russa. Ciao, Radio 24. Saluti! Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente ed ha una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.